Dunque, io ho detto che avremo anche dei bambini. Beh, è ovvio che essendo io lontano da casa quest'oggi, anziché essere in famiglia, anzi forse in questo momento la mia famiglia è a tavola e mi sta seguendo, è ovvio che ho detto, beh, proprio solo tutto il giorno a Tele Milano non ci voglio stare, nel senso solo lontano dalla mia famiglia. E allora ho pensato di accontentare il mio primo bambino, Michelino, che non ha mai visto come funziona la televisione e così starà qui con me oggi per farmi un po' di compagnia. Non so fino a quando, perché poi dopo un po' sicuramente si addormenterà. Vieni qua, Michelino, che ti presento ai nostri ascoltatori. Ecco, buon Natale, Michelino, eh? Ciao Mike, buon Natale anche a te, ma sono l'Ariele. 8:01 primo, riprendiamo. Seconda ora. Dove l'hai preso spadino? Sto Mike, buongiorno. Tele Milano. La tua colazione, Ro. Ti sembrava natalizio? È natalizio, sì. Ogni giorno. Ciao a tutti da Michelino. Iniziamo la seconda ora di Pane, Burro e Rock and Roll. Puntata 149. Benvenuti, benvenute anche i nuovi arrivati. Il nostro Daniele si è appena svegliato. Ci manda un sms. Buona giornata, Daniele. Ci ascolta con il suo pigiama preferito, la maglietta degli Schiantos con su scritto bevo solo quando guido. Bravo. Devo dare un paio di segnalazioni riguardante quello che è successo nella prima ora. C'è un amico che stasera deve andare alla Scala, chiedeva se ci poteva entrare col chiodo. Allora, abbiamo due segnalazioni diverse. Una dice non ti fanno entrare, il mio capo ci ha provato e col chiodo in alla Scala non entri. Mentre la seconda segnalazione è ci può entrare a patto che non sia la prima. Bau bau baby per il freak. Caro amico, vediamo se ritrovo la firma. No, non ce l'ho più. Amico che vai alla Scala stasera e che domani ci fai la recensione, vai col chiodo per favore. Che così scopriamo se si può andare alla Scala col chiodo oppure no. Dai. Sembra interessante. L'altro problema che avevamo aperto nella prima ora e che chiudo ufficialmente adesso è la possibilità di sbrinare il parabrezza della vostra autovettura con le custodie delle musicassette. Emiliano ci fa sapere che 4 anni fa ha distrutto una macchina mentre tentava alle 5:30 di sghiacciare il vetro e contemporaneamente accendere l'auto. Non fate le due cose contemporaneamente che non vi vengono. La macchina è partita da sola, ha sbattuto contro un'altra vettura e poi si è fermata contro un muro. Fiancata andata e radiatore partito. Anch'io usavo la custodia delle cassette. Non c'entra niente però la custodia. Qui è un problema che lo stai facendo contemporaneamente, Emiliano, su. Non gettiamo inutili allarmismi. Seconda ora di PBR. Inizia con il Duca. Sto dicendo con il Conte. No. Duca Bianco, Bowie, Rebel Rebel. Che tutti questi anni di carriera parlare con Babbo Natale non gli era mai capitato. Ma no, ma è una cosa emozionantissima. Uno scoop, come diciamo noi, pane, burro e rock and roll, una vera scoopata. Vediamo il marchingegno architettato da Spadino, il nostro ingegnere ingegnoso di fiducia, che punta verso la Lapponia. Milano chiama Babbo Natale. Pane, burro e rock and roll chiama Santa Claus. Natale, Natale, ma mica no de bale! Bentornato, Santa! Qua una sicurezza al Babbo Natale Meneghino. Come va oggi? Posso dare del Meneghino, sì. Babbo Natale? A me precisamente sono di Rho, però se volete includermi in questa area geografica, ricordiamo più per ampia, chi non lo sapesse che ha vinto un concorso per Babbi Natale, guidare le renne. Esatto. Oh, è il contatto che hanno passato a noi, poi insomma. Allora, come lei lì? Freak e Frock lì? No, sì, Freak Antoni e Ariel. Senta, Babbo Natale, io mi sono preparato anch'io una battuta, che, però seria, riguarda... Faccia fare figuracce. No, no, una cosa seria, visto che insomma viviamo in periodi di autunni, di inverni caldi. Ma lei, Babbo Natale, perché non ha mai parlato con i sindacati degli elfi che sono 20 anni in sciopero? Lascia sta il sindacato dei... Ma lascia sta, va. Ma non si non può fare qualcosa per sbloccare cioè, la lei situazione. Ha preferito sostituire gli elfi con i nani anziché parlare con i sindacati. Il sindacato, guarda, lascia sta. Dal 79 che ci abbiamo in ballo sta vertenza, qui non riusciamo. L'altra... Ma sai cosa mi ha fatto l'altro giorno? Chi? Ma... Gli elfi? Cosa? Gli elfi, mi hanno fatto il blocco delle slitte. No. È vero? Non si riusciva a passare. No. Un ingordo pazzesco. E i crumiri non vanno tra gli elfi. Ma no. Disa, guarda, lascia... Gli ha precettati, li ha costretti. Fortuna che c'hai i nani. Ma i nani sono... sai che adesso si prendono in blister da 7 perché sì, come la birra, una in più. Cioè, sì. Ci sono i 7-pack. Sì. Questi nani qua. E oh, l'altro giorno, cannolo, pa! Squaraus tutto il giorno non riusciva a uscire dal cesso. Ma una roba che faceva schifo. Che cannolo. Cosa era successo? Al Polo Nord come si fa a avere? È successo, che mi ha mangiato tipo 42 noci di cocco di seguito. Beh, maestro, lei ha mai mangiato 40 noci di cocco di seguito? No, non mi sono sempre trattenuto. Ma perché le noci di cocco? Ma soprattutto al Polo Nord le noci di cocco. Lascia stare, ho dovuto fare una confezione speciale di 80 noci di cocco da regalare a Keith Richard. Perché altrimenti quel scemo lì va su la pianta, il borlaggio a sfamare la testa. Chi gliele spediva? Mick Jagger? Era il regalo dei Rolling Stones al Kittrich. Sono 80 noci di cocco. Ma quel pirlone del cannolo me ne ha mangiate 12 e è venuto il squaraus. È una roba che non si può. Ah, disastro. Però la notte di Natale si cala nel camino di Keith Richard. Nel camino di Keith Richard li lancio addosso le noci di cocco, sperando di non prenderlo, sì, ovviamente. Speriamo. Ah, ragazzi, a proposito, prima che finisca il collegamento, sì, Cos'è che volete buttare? Frick, diglielo tu. Vai, Frick, allora, vai tu. Allora, dunque io avrei visto una motocicletta, una Harley Davidson, no, una... No, mi sento, ragazzi. Pronto, Babbo Natale, Santa. Harley Davidson. Senta, Santa. Pronto. Senta, Santa, senta, Santa. Santa, senta! È andata, è andato il collegamento, non si disperi, anche maestro. Stavolta. Maestro, non pianga, sa cosa le dico? L'Harley Davidson. Quasi fatta. L'Harley Davidson, maestro, gliela compro io. Ariele, la guardo con occhi diversi oggi. Accidenti, che bel gesto. Voterò per lei. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, because I'm easy come, easy go, little law. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stop me? Yes. Stay tuned in. It's a five-way link-up. If you've enjoyed this program, tune to 29314567 megacycles. If you can't find that, drop it. Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking like the doodah man. Together, more or less in line. Just keep trucking on. Soft machine in Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you leave. Most of the cats that you meet on the street speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going, out of the door and down to the street all alone. Trucking like the doodah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. You know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame. Trucking up the Buffalo, been thinking you got to mellow slow. It takes time, you pick a place to go. Just keep trucking on. Staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street, sit up like a bowling pin. Knocked down, it gets to wearing thin. They just won't let you be. Travel, get tired of traveling, you want to settle down. I guess I can't revoke yourself trying. Get out of the door, let out and look all around. Sometimes the light's all shining on me, other times I can barely see. Quei fricchettoni dei Grateful Dead con Trucking. Siamo al 19 di dicembre e in queste due settimane ci siamo decisamente fatti prendere dal Buon Natale però rock, abbandonando quasi tutti i nostri radioascoltatori di riferimento, i nostri redazionisti sparsi là fuori nel bel paese che ascolta Rock FM. È un po' che non li stiamo sentendo i fedelissimi, è tantissimo che non stiamo sentendo Carlo il tabaccaio. Carlo, come va? Benissimo, guarda, alla grande, meglio di così Natale non poteva andare, guarda. Allora, ricordiamo per chi non lo sapesse che con Carlo di solito nella prima mezz'ora davamo i numeri del lotto. Rubrica che è stata sospesa per il Natale e che riprenderemo a gennaio. Numeri che non uscivano mai perché erano rock. E soprattutto esatto. Numeri che giocavamo una volta. Giocava, perché io ho mai giocati. Giocava una volta sola perché fa rock. Esattamente. Però comunque sì che ti ricordi, dall'intervento di Carla, lei suggeriva di ripetere questa sequenza di gioco. Tra l'altro salutaci la Carla, dille che ci manca un sacco. Senz'altro. A gennaio la ritartassiamo. Stamattina comunque è già venuta a incassare anche lei. Bene! Scopro che il buon Carlo. Sebbene ci fosse la pausa natalizia, lui nel suo negozio ha comunque esposto i vecchi numeri che avevamo dato. Precisamente, esatto. E ci sono dei numeri che abbiamo proposto a settembre, il riferimento sempre a numeri rock, quindi erano riferiti ai Beatles, sì. Su un avvenimento di Abbey Road, su una targa che compariva su un maggiolino. E voglio ricordare essere il mese di febbraio nel calendario 2008, l'anno della svolta. Ah, ok. Poi te lo faccio avere. Va bene. I numeri erano 4 come gli Scarafaggi, come i Beatles. Sì. Il numero sulla targa 28. E se Paul McCartney oggi fosse vivo, cosa che è, avrebbe 50 anni. Quindi i numeri erano 4, 28, 50. Esatto. Cosa è successo? E siccome Paul inizia per P, giustamente vivrebbe a Palermo. Certo. Terno pieno su Palermo. Quindi c'è uno da me qua ha beccato 13.700 euro. Mannaggia, lì pescetti. Non potevi farlo tu, Carlo, dai. Non dire niente, guarda, non posso giocare tutti i numeri che propongo, sennò andrei sul lastrico. Hai ricordato a questo tuo cliente che comunque arrivavano da Rock FM quei numeri? Certo, c'è scritto proprio fuori sul cartello, vabbè. I numeri di Rock FM. Volesse far ballare un millino, dico, noi lo prendiamo sempre volentieri. Davvero, purtroppo io non becco niente come percentuali, quindi Va bene. Fatto, diciamo, a discrezione del cliente. Questo per far sapere che a gennaio, quando riprenderemo, insomma, tenete le orecchie aperte, perché non si esatto. sa esatto, e insistere sempre. Caro Carlo, un abbraccio, a presto. Auguri a tutti, ciao. Of a wave, it's like magic. Nella vita, mio caro Fricantoni, c'è bisogno di certezze. Ah, come giusto, ah, come vero, oh sì sì, sì sì, sì sì. O sei un rocker o non lo sei, o le cose le sai o salle. Sono assolutamente d'accordo. Era per tuffarci a bomba sul test attitudinale di quest'oggi, una domanda, tre risposte. Naturalmente, oggi parleremo dei... dei... cosa fa? Una motocicla, i Motorhead! Bravissimo! Oh, va bene. Un punticino in più, glielo storica regalo io. Formazione capitanata da Lemmy Kilmister. Sapreste ricordarvi là fuori perché Lemmy in persona scelse il nome Motorhead? Ipotesi A. Motorhead, nella traduzione testa di moto, è l'appellativo utilizzato in lingua inglese per identificare gli appassionati di motociclette. Essendo tutti componenti della band Motorhead dei veri bikers, la scelta fu perciò molto semplice. Perché Motorhead? Ipotesi B. Motorhead era l'appellativo affettuoso col quale Lenny chiamava suo padre, meccanico specializzato in motori della leggendaria Harley Davidson. E infine, ipotesi C. Motorhead è la traduzione inglese della parola americana speed freak, una persona dipendente dallo speed. Lenny, essendo fortemente dipendente proprio da questa sostanza, scelse in maniera ironica, cioè anche autoironica, il termine Motorhead come nome per la sua band. Vedete di azzeccare là fuori, eh? Questa dovreste saperla, almeno questa. La soluzione? Come al solito, te la diamo? Dopo. E cioè la risposta esatta? A fra poco.